pace Paolo. Togo, prendi l'Eldis più grande, è imperiale. Guarda la zoppa con le cicatrici. Ah! Il regalo di matrimonio, porco demonio, è materia difficile. Come se all'incrocio del Cairo non ci fosse mai stato un cazzo di vigile. La mia mamma mi ha detto di non regalare, ti pare? L'Elvis di plastica, ma mi resta l'amletico dubbio che quel pupazzone sia un'idea fantastica. Se non fosse che mi dicono sempre niente materia difficile, fate il viaggio nel mondo dei mega regali, vibrando nel cielo io agile, con il frigo, il servizio, la culla e la lavatrice, accoglienza entusiastica, ma mi resta l'ametico dubbio che il regalo migliore sia l'Elvis di plastica. Sì, nello stile dei Maccabei, ti auguriamo luce e fede dei sì, nello stile degli impotenti paletani, siate contenti sì.